qualcuno qua sul 10? CQ, canale 10, CQ. CQ 10. Non ci ho fatto caso a chi la cantava, Sì, lo so, la canzone è Giovanni Giorgio, ma la cantano diverse persone, sono tanti che la cantano. E beh, come mai tu oggi? Tu stai lavorando in vacanza, sì? No, sono in ferie dall'otto, da sabato, dietro il 24. Adesso ho acceso un secondo, ero di passaggio qua a casa, alle 3 si accendo un attimino e ho sentito la musica di Gozo, di Giovanni Giorgio. Ma avrei un caldo che dentro, mamma mia. Caldo, c'è tanto, già lo vedo. Forse 34 gradi, stavo controllando poco fa, ci sono 34 gradi in questo momento, si sente, puoi immaginare, sono tanti, sono tanti, e vabbè, no, mio fratello ne ha inciso diversi altri canzoni di Giovanni Giorgio, sempre quello, ma non solo quelli di Giovanni Giorgio, anche sue, ne ha tantissime, mi ha dato la salamania da qualche salata. Come si chiama di nome tuo fratello? Tone, Salvatore. Ok, vabbè, qua se l'abbia sentito, se ha cantato da qualche parte, magari molte volte si trovano in qualche locale, in qualche bar, fanno delle serate, molte volte può essere... Ma non vive a Sassari lui? Sì, certo. Sì, mia, adesso ti mando la fotografia di quando giocavo al calcio. Di quando giocavo al calcio. Di quella lì già l'ho visto il cartellino, te l'avevo detto che ho visto il cartellino, te lo volevo mandare, c'è un gruppo su internet, su Facebook, dove fanno vedere tutte queste fotografie, Bruno Mannoni si chiama, non so se lo conosci, ogni tanto pubblica fotografie di vecchi giocatori, di squadre vecchie, cioè c'era proprio tuo fratello, non mi ricordo se giocava nel torneo del bar, pure ha giocato, possibile? Sì, e gli ha fatto un sacco di tornei, ha fatto anche campionati, ha fatto sempre quello, e ha fatto un po' di tutto, là. Soprattutto con Corso, come si chiama, con Torre Sanna, Buonanima, e tanti altri, e un po' dappertutto ha giocato. Mi sembra, non vorrei dire, è possibile che abbia giocato col Barmamusi? Sì, anche col Barmamusi, è vero, e beh, noi abitavamo lì vicino, cioè Barmamusi era vicino a casa del mamma, dunque lui allora in quel periodo era ragazzo e giocava anche col Barmamusi, sì, è vero. Perché c'era anche Torre Sanna che giocava col Barmamusi, dove rimaneva il Barmamusi? L'ho sentito di nome ma non me lo ricordo. Di fronte ai giardinetti di Monte Rosello, su. Di fronte. I giardinetti di Monte Rosello, ma prima della questura, nella discesa stai dicendo? È lì in quella zona, appunto. Lo sai dove da... come si chiama? Infatti in quella zona, proprio dove c'è la questura praticamente. Praticamente sulla sinistra, sulla destra salendo, di via, che via è quella? Via Gabriele Annunzio mi sembra che sia, se ricordo bene. Sì, via Gabriele Annunzio su in alto. Ho capito che c'è una specie di piazzuola che ci parcheggiano le macchine, di lì all'interno stai dicendo? Sì. Ma non c'è più quel bar adesso? Ma non credo, penso che sia sparito, o perlomeno hanno fatto qualche altra cosa. Non so se c'è ancora come bar, o se c'è qualche altro negozio, forse c'è un circolo, boh, credo che ci sia anche un circolo lì vicino, o nello stesso locale, non so. Ma se c'è qualcuno che ha salutato, avanti, chi è? Ah, ciao, ben sentito Roberto D'Alghera, aspetti di lanciare Giulio se ti ascolta. Giulio, ascolta Roberto. Avanti Roberto, vediamo se ti ascolto. Siamo due giorni prima del Ferragosto, sono entrato un attimino qua, ho acceso le radio perché erano un po' di giorni spente, per fargli prendere un po' di calore, ma mi sto sciogliendo io, ci sono quasi 30 gradi in questo studio dove tengo tutto, infatti rimango qualche minuto e vado via. Comunque ben sentito anche a te, ma sei in ferie tu Roberto? Ho detto se sei in ferie. Ok, vai Giulio, l'hai ascoltato? Lo stesso, che stiamo durando, però non capisco quello che sta dicendo, è troppo basso. Il QRM è al suo livello, per cui lo chiude la sua modulazione. Non so se lui mi sente, ma non credo. Però ciao Roberto, comunque, se mi stai ascoltando, ti rilancio il microfono, vediamo un po'. Roberto, hai rilanciato, l'hai sentito a Giulio? No, ti ha chiesto soltanto se lo ascoltavi, se lo copiavi. Comunque riferisco io a te Giulio, dice ti ha ascoltato un attimino, però adesso c'è propagazione e per cui non è riuscito a tirarti fuori. Qua arrivi Santiago Otto, radio quasi 5, dai Roberto, c'è appena di QRM, anche qua sta iniziando a salire la propagazione, si è aumentato troppo, magari ti perdo anche a te. Te come ti arrivo invece dalle tue parti Roberto? Adesso sono fatte per altri tipi di utilizzi. Ok, io signori vi lascio adesso perché qua mi sto sciogliendo, tra l'altro devo anche uscire, saluto a Giulio che è il primo che è entrato, saluto a te Roberto e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao, ci sentiamo, adesso si vede, ciao. Ciao l'altro Roberto di Alghero anche, se mi stai ascoltando, non riesco a capire quello che dici, ci sentiamo, ciao ciao. Prova.